Io come prima cosa vi ringrazio per avermi accettato, per l'invito rivoltomi come Giovanni in passato e come fratello di Peppino. Io sono venuto soprattutto per esprimere tutta la mia piena solidarietà, forse un po' in ritardo, nei confronti di quello che avete subito. Perché io credo che, cioè sono convinto che bisogna difendere questi spazi che io considero veri, noi consideriamo veri spazi di democrazia, dove chiaramente si cresce, si discute, dove veramente ci si pone di raggiungere degli obiettivi importanti. Poco fa si parlava delle battaglie sull'acqua, si parlava delle battaglie dal basso, delle battaglie portate avanti in tutti questi anni, che non sono poche, ma per un semplice motivo, soprattutto perché da un po' di tempo a questa parte sappiamo benissimo che gli spazi di democrazia in questo paese si stanno restringendo sempre di più, cioè da tutti i punti di vista. Allora io credo che noi dobbiamo cercare di salvaguardare questo tipo di attività, queste lotte, cioè queste lotte che partono dal basso, che sicuramente fanno riferimento all'impegno che portava avanti Peppino in passato 40 anni fa. Ecco, cioè l'attualità del suo pensiero, il suo messaggio, che è un messaggio positivo, un messaggio educativo, soprattutto per le nuove generazioni. Poco fa Beppe diceva giusto, spesse volte si va nelle scuole e si raccontano un po', non voglio dire le barzellette ai ragazzi, però è chiaro che arrivano, cioè, messaggi che io ritengo negativi, poco educativi. E io vi faccio un esempio: alcuni anni fa, appunto, voglio fare riferimento proprio alle scuole, per dire che quando noi andiamo nelle scuole, cioè non andiamo un po' a fare retorica oppure a mistificare un po' i fatti, ma raccontiamo la storia di Peppino. Ma a parte la storia di Peppino, noi portiamo avanti, cerchiamo di trasmettere quei grandi valori. Allora vi voglio fare così un esempio. Io alcuni anni fa, soprattutto dopo il successo del film, perché il film è stato positivo, è stato, diciamo, un mezzo di comunicazione importante che ci ha dato la possibilità di far conoscere la figura di Peppino un po' non solo in tutta Italia ma in tutto il mondo, però è chiaro che quella figura è stata mitizzata. Allora quando entravo nelle scuole vedevo degli striscioni, dei cartelli dove stava scritto appunto il riferimento alla legalità, perché tu parlavi proprio, accennavi un po' alla legalità, dove stava scritto legalità, rispetto delle leggi. Poi magari c'era qualcosa, qualche riferimento un pochettino diverso, legalità, rispetto delle regole. Allora la prima cosa che io dicevo ai ragazzi: no, non ci siamo affatto. Rischiavo di apparire molto diseducativo, perché se io questo discorso lo faccio qui a voi, voglio dire, sfondo una porta aperta. Però vedete, in quel contesto, in quell'ambiente, dove abbiamo avuto scontri fortissimi, soprattutto al nord, non nelle scuole del sud, dove ci siamo scontrati con i fascisti e con i leghisti. Allora, legalità, più che rispetto delle leggi, cioè non è affatto, anzi, rispetto delle leggi. Non voglio essere diseducativo pure con voi, figuriamoci un po' se con voi sono diseducativo, ma legalità più che rispetto delle leggi, il messaggio che noi abbiamo dato un po' ai ragazzi, alle nuove generazioni, è rispetto della dignità umana. Ecco, perché quando al centro di una legge non c'è rispetto dell'uomo, non c'è rispetto della sua dignità, noi siamo convinti che quelle leggi non si possono rispettare per il bene della legalità, perché in un paese democratico le leggi non si possono subire. Allora, ecco, legalità più del rispetto delle leggi, lo ripeto, e rispetto della dignità umana. Ecco il messaggio che deve passare, che è sempre passato, che noi abbiamo sempre fatto, soprattutto con le nuove generazioni. Perché vedete, si parla tanto, si sta facendo un grande abuso di questa parola legalità, se ne parla pure qui, in questo centro sociale, perché è un po' l'attualità di tutti. Va bene, se noi non possiamo più fare a meno di nominare questa parola legalità, allora noi dobbiamo aggiungere legalità democratica, legalità costituzionale, perché pure Hitler emanava le leggi razziste, non credo che quella era legalità. Allora il messaggio che deve passare soprattutto alle nuove generazioni è proprio quello, che legalità non significa piegarsi, abbassare la testa, non significa accettare le sopraffazioni e qualsiasi cosa che ci passa, assolutamente no. Io non voglio citare Che Guevara, perché se io incomincio a citare Che Guevara qui, poi voi mi prendete per rivoluzionario. Allora, citiamo Don Lorenzo Vivani, che Don Lorenzo Vivani era un sacerdote che diceva che l'obbedienza non è sempre una virtù. Allora noi aggiungiamo che la disobbedienza civile è un contributo importante per mantenere alti i valori della legalità. Ecco, allora da questo punto di vista noi ci siamo. Non voglio fare esempi, perché se faccio esempi a voi, cioè incomincio a essere un po' presuntuoso, un po' ripetitivo, ma si può fare così brevemente, accennare alle battaglie di disobbedienza civile, dove è nato quel movimento per i diritti civili contro le leggi razziali negli Stati Uniti, Martin Luther King, l'esempio di Rosa Parks, poi possiamo andare su Mahatma Gandhi e su tanti altri. Ecco, e allora io credo che il vero concetto di legalità è chiaro. Allora, perché parlare di legalità? Allora io credo che una delle cose importanti, soprattutto nelle scuole, dico soprattutto nelle scuole, che è proprio lì che noi dobbiamo formare le coscienze, con interventi mirati che dovrebbero raggiungere alcuni obiettivi importanti, proprio lì. E allora il messaggio di Peppino in passato, raccontare la sua storia, ha un fascino particolare, perché Peppino in passato era portatore di questi grandi valori, le grandi battaglie di civiltà, di democrazia, le battaglie sociali. Ecco, e noi sappiamo benissimo che Peppino inizia il suo impegno, la sua attività, esattamente a metà degli anni 60, e quello era un periodo difficile, cioè dove parlare di mafia era impossibile. Per molti la mafia non esisteva, qualcuno sosteneva un'invenzione dei giornalisti. Ecco, però voglio ricordare pure a voi che si veniva da un passato storico che molti volevano archiviare, un passato che volevano cancellare, perché purtroppo la cancellazione della memoria storica in questo paese sta diventando uno sport nazionale molto diffuso, addirittura sta superando il calcio, sta superando lo sport del calcio, e abbiamo visto quello che è successo a Ponteranica, che poi ci ritorniamo per quanto riguarda Ponteranica. Ecco, la cancellazione della memoria. Allora noi, per conoscere un po' la storia di Peppino, ma non soltanto la storia di Peppino, la storia delle grandi battaglie sociali, quelle grandi battaglie di civiltà e di democrazia, noi dobbiamo fare riferimento a delle date storiche che si perdono nella notte dei tempi. Dico apparentemente si perdono nella notte dei tempi. E il nostro riferimento massimo va proprio al 1° maggio del 1947, la prima strage di Stato, cioè la strage di Portella delle Ginestre, perché in quella piana è stata consumata la prima strage di Stato, perché uomini delle istituzioni si sono resi complici di quell'eccidio. E pensate un po' quello che era successo qualche settimana prima. Qualche settimana prima si è votato per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, cioè quella Repubblica fondata col sangue versato durante i partigiani nel periodo della resistenza antifascista. Ecco, quella era la prima fase, la fase di costituzione della prima Repubblica. Ecco, si vota. Noi in Sicilia siamo abituati ai risultati bulgari, 0 deputati da una parte, 60 deputati dall'altra parte, invece no, quella volta in Sicilia, per la prima volta, dico, nella storia della fase di costituzione della Prima Repubblica, si va a votare, le sinistre vincono le elezioni. Il Partito Comunista, il primo partito, seguito dal Partito Socialista, si apprestavano a formare il governo regionale appoggiati dalla lista cattolica. Questo non poteva avvenire, non doveva avvenire. E allora a Portella hanno sparato i fascisti, hanno sparato i servizi segreti, qualcuno dice la banda Giuliano, qualcuno dice no, molti non erano d'accordo alla banda Giuliano. C'erano due fazioni di mafia che hanno sparato, una mafia buona, una mafia meno buona. No, il problema non è questo, cari compagni, è importante sapere la verità, però quella strage è servita, l'obiettivo di quella strage era proprio quella di bloccare un grande processo di rinnovamento nel nostro paese, che si stava avviando proprio lì, in quella fase nuova. Un processo di rinnovamento, e non si ferma con Portella delle Ginesse, perché poi c'è una mattanza che continua negli anni. Questa è la nostra storia, questa è la nostra storia. E vedete che si parla di legalità, ecco, ci sto pensando proprio ora, in questo momento, cioè si parla di legalità, se ne parla tanto, e quei contadini, quei capi popolo, quei militanti comunisti che sono massacrati subito dopo, sono stati massacrati subito dopo la strage di Portella delle Ginesse, guarda caso portavano avanti le battaglie per la legalità, perché chiedevano l'applicazione di una legge, perché la legge era stata approvata, la famosa riforma agraria, che prevedeva, pensate un po', tu parlavi poco fa di rivoluzione, una vera rivoluzione che prevedeva la spartizione delle terre incolte, le terre degli agrari, cioè questo è un passo importante, prevedeva la spartizione ai contadini organizzati nelle cooperative. Allora dico un passaggio importante per un semplice motivo, perché questa legge faceva scomparire il mafioso, cioè la mafia vera e propria, perché l'identikit del mafioso in quel periodo storico, in quel momento, era il gabellotto, una figura intermediaria che stava in mezzo fra gli agrari e i contadini. Benissimo, la sua funzione era proprio quella di rubare agli agrari i terreni, agli agrari e feudatari, e affidarli in gabella illegalmente ai contadini. Rubava e sfruttava i contadini. Ecco il mafioso, l'identikit del mafioso, il gabellotto. Bene, con la riforma agraria, con i decreti Gullo, perché Gullo era un calabrese, credo che era vicino Cosenza, Gullo era un calabrese, quelli erano i decreti Gullo. Benissimo, se funzionava quella riforma, sicuramente noi non saremmo mai arrivati dove siamo, al degrado morale della Sicilia, perché poi dopo, subito dopo, successivamente, dopo un anno, dando via dalla Sicilia, su una popolazione di 3 milioni e 500 persone, vanno via 1 milione e 500 persone, cioè viene fuori quell'esodo biblico che si chiama emigrazione. E Placido Rizzotto, il sindacalista che alcuni giorni fa noi abbiamo celebrato i funerali di Stato, non l'abbiamo celebrato noi, sono stati celebrati i funerali di Stato, benissimo, viene ucciso nel 1948. Nel 1948 nasce Peppino Impastato. Ecco, cioè la continuità storica, possiamo dire, non so se possiamo definirlo il passaggio del testimone, il passaggio del testimone dell'antimafia sociale. E Peppino inizia l'impegno e l'attività che poco fa io l'ho accennato, dopo la morte dello zio Cesare Mansella, che era il capo della cupola in quegli anni, era il capo mafia. Dopo la morte dello zio Cesare Mansella, Peppino inizia, dopo qualche anno, il suo impegno e la sua attività. Ecco, fonda il giornale, l'idea, ancora prima del giornale, le battaglie, cioè incontra Danilo Dolci, l'incontro con Danilo Dolci, le battaglie contro il degrado nella Valle del Berice, la prima marcia della pace e della protesta, ecco le battaglie sociali. Danilo, diciamo che era un disubbidiente, un sociologo venuto dal nord e ha portato la disubbidienza civile in Sicilia. Addirittura il suo primo digiuno lui lo ha fatto sul letto che qualche giorno prima un bambino era morto per malnutrizione, perché in Sicilia si moriva per malnutrizione. Ecco, allora se noi siamo un po', diciamo, attenti, noi abbiamo definito Peppino in passato l'erede di quel grande movimento contadino, perché vedete il movimento, a proposito di battaglie sociali, il movimento contadino degli anni 40 è stato uno, compreso quello calabrese, il movimento contadino meridionale, è stato uno dei più grandi movimenti di massa d'Europa. Ecco, però con la complicità delle istituzioni, cioè quel movimento è stato sconfitto. Bene, noi Peppino in passato lo possiamo considerare l'erede di quel grande movimento contadino, perché lui ha sposato la causa delle battaglie sociali, l'abbiamo visto impegnato in prima fila quando bloccava le ruspe, a favore della battaglia, contro la battaglia per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi assieme ai contadini, ecco le battaglie sociali, assieme agli disoccupati, assieme, diciamo, alle persone che lavoravano non venivano messe in regola. Ecco, queste le battaglie sociali di Peppino. Però nello stesso tempo lo possiamo definire il pioniere della nuova fase di lotta, perché Peppino nell'impegno di lotta contro la mafia è riuscito a inventarsi metodi nuovi. Io poco fa accennavo al giornale, cioè metodi nuovi di grande attualità. Il giornale, le mosse fotografiche, le battaglie ecologiche, perché parlare di ecologia era veramente difficile in quel periodo, non era difficile, non era di attualità. E Peppino poneva sempre il concetto di bellezza, cioè quella bellezza che sicuramente può sconfiggere la mafia. Ecco, parliamoci chiaro, cioè Peppino, a parte le battaglie ecologiche, il giornale che poi chiude, cioè lui non si rassegna, perché con un gruppo di suoi amici e compagni si improvvisa reporter. Scusate se faccio un riferimento breve al film, quando lui descrive quelle mosse fotografiche, si improvvisa canta storie, cioè descrive la famosa foto delle curve che ironicamente considerava una provvidenza divina, perché con le curve gli automobilisti non vanno a sbattere, il rettilineo è monotono, c'è la possibilità di andare a sbattere. No, quelle curve chiaramente servivano a mantenere gli interessi dei mafiosi che costruivano abusivamente. Lì c'era il capannone, poi c'era la piscina, dall'altro lato c'era un'altra villa e naturalmente lo Stato che si piega alla mafia. Cioè queste erano le denunce di Peppino, dove poi Peppino successivamente, a parte il suo impegno, la sua attività politica, perché Peppino non ha maturato subito dopo la morte dello zio, dopo qualche anno, solo ed esclusivamente una forte coscienza critica nei confronti della mafia, ma lui in quel periodo storico, figlio del suo tempo, da quelle battaglie sociali, lui è riuscito ad acquisire una forte coscienza politica e ideologica, e ce lo ritroviamo come un grande militante politico, anche se spesse volte prevale nelle descrizioni che si fanno spesse volte in alcune pubblicazioni, ma non soltanto, anche in alcuni incontri e dibattiti, prevale la sua figura come militante antimafia. No, Peppino in passato era un comunista, una persona impegnata nel sociale, ha avuto un lungo percorso di militante comunista impegnato con tutto se stesso in queste difficili battaglie. Chiaramente dal film non è venuto fuori perché questa parte è stata trattata con grande superficialità, però è venuto fuori la parte che riguarda un po' la vicenda umana. Ecco l'aspetto importante della figura di Peppino, che spesse volte viene trascurato, che noi non dobbiamo affatto trascurare, non perché ci troviamo qui a Cartella, ma anche nelle scuole. Cioè questi interventi vanno fatti soprattutto nelle scuole. Allora, quando si parla di legalità, io accennavo poco fa a legalità costituzionale, accennavo a legalità democratica. Ecco, e quello deve essere, diciamo, il nostro percorso legato a quelle battaglie sociali. Il cammino di Peppino poi lo conosciamo, perché il Circolo Musica e Cultura, dove lui ha canalizzato un po' tutto il suo impegno, lo ha canalizzato tutta la sua passione per l'arte, e lui era convinto che l'arte era un veicolo di comunicazione importante. E vedete che il Circolo Musica e Cultura, lui è riuscito ad aggregare decine, centinaia di giovani. Quello era il periodo dei Circoli Ottobre, non so se qualcuno si ricorderà di quel periodo, dove i Circoli Ottobre avevano una funzione culturale specifica. Bene, in quel periodo Peppino in passato fonda il Circolo Musica e Cultura, dove è stata una grande esperienza positiva. In continuità del Circolo Musica e Cultura abbiamo la radio. Ecco, vedete che la radio è stato veramente un momento importante della nostra vita, perché finalmente, io non l'ho vissuta in pieno perché purtroppo era morto mio padre in quel periodo, però per molti compagni è stata una grande esperienza. Ci siamo sentiti veramente liberi, sappiamo benissimo come sono nate le radio libere. Un giudice di Milano che emette una sentenza costituzionale, dove si possono occupare le frequenze in maniera legale. Peppino subito fonda la radio assieme a un gruppo sempre di amici e compagni cui era molto legato, fonda la radio, ripeto, un grande momento. Però da quella radio, a parte le sue denunce, che con le sue denunce è riuscito veramente a bloccare grossi progetti di speculazione da parte della mafia, i notiziari. Cioè, vi faccio un esempio: in quel periodo i morti sul lavoro venivano delegati, proprio messi nelle ultime pagine, non facevano notizia. Per Peppino una persona, un incidente sul lavoro mortale era la prima notizia nel sommario, così come le lotte studentesche, gli scontri con la polizia, cioè quelli erano le prime notizie, le battaglie proprio dei contadini sociali, le prime notizie. Ecco, però, a parte la musica, la buona musica di quel periodo, che non sto qui a descrivere, perché voi immaginate che tipo di musica si trasmetteva all'interno della radio, ma però lui ha scoperto un'arma micidiale, pensate un po', un missile sul vero senso del termine, le trasmissioni onda pazza, l'ironia. Perché vedete, lui è riuscito veramente a mettere in difficoltà i capi mafia, i capi bassoni del nostro paese, che vedete Gaetano Badalamenti non era un mafiosetto di provincia così, oppure di paese. Gaetano Badalamenti era uno dei più grandi boss del secolo precedente, e Peppino in passato li ha ridicolizzati, li sfotteva, li prendeva in giro con quelle trasmissioni dove si ispirava alla cultura dei pellirossa indiani. Cioè Tano Badalamenti lui lo ha soprannominato il grande capo Tano Seduto. Il sindaco di Cinisi si chiamava Gero Di Stefano, lui lo ha soprannominato il grande capo Geronimo Stefanini, da Geronimo. Poi la festa della ricotta, tutte le macchiette radiofoniche, dove vedete, si è vissuto un momento particolare, perché la gente rideva alle spalle dei mafiosi, soprattutto i ragazzini, e no, questa cosa non poteva passare, perché vedete, se la mafia con delle denunce perde un progetto di speculazione, perde dei soldi, ha il tempo di recuperare, recupera con molta facilità, però quando la mafia inizia a perdere consensi sociali, che le persone ridono alle loro spalle, lì non può più recuperare. Allora hanno capito che Peppino in passato non era il solito militante politico che giocava a fare la rivoluzione, ma era un militante serio che li avrebbe messi in difficoltà, che li avrebbe sconfitti da tutti i punti di vista. Ebbene, allora lo hanno ucciso. Proprio per tutti, se noi mettiamo un po' assieme tutti questi ingredienti, lo hanno ucciso per questo motivo. Perché lui non poteva continuare a vivere, non si poteva permettere di sfottere e prendere in giro questa gente. Ecco le battaglie sociali. Lui, ripeto, li avrebbe sconfitti. Bene, Peppino, nello stesso momento, nello stesso periodo che era impegnato con la radio, era candidato nella lista di Democrazia Proletaria, dove sarebbe stato eletto. Immagino a voi quello che sarebbe successo all'interno del Consiglio Comunale con la sua presenza. Cioè, pensate un po', con la radio e poi col ruolo di consigliere comunale, pensate un po' quello che sarebbe successo. Allora i mafiosi hanno capito che bisognava ucciderlo. Però vedete, le cose non sono andate in un certo modo. Cioè, Peppino non è stato ucciso in un semplice agguato mafioso. Tutto lo scenario attorno a noi sembrava proprio uno scenario di un attentato terroristico, perché lui è stato sequestrato da un comando di killer mafiosi all'uscita della radio, che lo hanno portato all'interno di un casolare, lo hanno tramortito e poi con una carica di tritolo, di dinamite, lo hanno fatto saltare in aria, perché la dinamite, il tritolo, è sempre stata l'arma secolare della mafia, funziona ancora tutt'oggi. Ecco, lo sciaggismo è avvenuto in questo modo. Bene, quello era il periodo delle Brigate Rosse, la strategia, la famosa strategia della tensione. Ecco perché poi, guardate, si parla sempre di strategie delle tensioni, si parla di sempre di servizi segreti deviati, ma quali servizi segreti deviati? Quello è lo Stato, è una parte dello Stato che dà dei precisi ordini, cioè una parte dello Stato che dà dei precisi ordini, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro. Sicuramente non bisogna generalizzare mai, però qui ci si inventa i soliti servizi segreti deviati, non c'è niente di deviato, sono scelte precise, scelte mirate, una strategia portata avanti a livello scientifico di un potere costituito. E sicuramente però poi ci sono quelle persone che muoiono, che fanno parte delle istituzioni perché non sono d'accordo su questo. E il caso di Peppino in passato è stato proprio un caso esemplare di quello che sto raccontando io, ma per un semplice motivo. Quali servizi segreti deviati? I primi investigatori che sono arrivati sul luogo del delitto hanno tentato di oscurare, non oscurare le indagini, hanno tentato di affossare totalmente le indagini. E vedete che noi abbiamo il maggiore dei carabinieri Subranni, allora era un maggiore, che ha fatto una splendida carriera, invece di togliergli la divisa, di buttarlo fuori a calci nel sedere, dall'arma dei carabinieri, ecco, fa una splendida carriera. E poi mi vengono a raccontare la barzelletta del servizio segreto deviato. I due giudici oggi sono in Cassazione, i due giudici che hanno depistato le indagini. Uno dei grandi depistatori è stato il procuratore capo di allora, il procuratore generale, che si chiamava Martorana. E questo è un pezzo di Stato. E poi dopo, successivamente, abbiamo avuto il maresciallo dei carabinieri, ma quello poveretto era, come si dice, uno scalino proprio il più basso, pure lui ha fatto la splendida carriera, tutti vivi. Cioè, pensate un po' alla faccia della legalità. Però, siccome noi non generalizziamo, lo abbiamo sempre detto, perché non è giusto buttare benzina sul fuoco o fare di tutta l'erba un fascio. Abbiamo avuto quelle persone che hanno tentato in tutti i modi di arrivare alla verità sul caso in passato. Uno è stato il procuratore capo della Repubblica, Gaetano Costa. Martorana era il capo generale. Il giudice Signorino, quello è un caso diverso perché non so se è stato costretto a suicidarsi, questo non lo sappiamo. Dopo, successivamente, dopo che Signorino formalizza l'inchiesta per omicidio contro ignoti, va a finire l'inchiesta al consigliere istruttore Rocco Chinnici. Un galantuomo, una persona per bene, uno che credeva nel dovere, nelle istituzioni. Il giudice Rocco Chinnici non riesce a completare l'inchiesta perché non ha il tempo di completarla, sappiamo benissimo perché non ha il tempo. Dopo, successivamente, torna volontario dal nord il giudice Caponnetto, che assume l'inchiesta, però con quei riscontri che aveva lasciato Chinnici non si poteva rinviare a giudizio. Se si rinviavano a giudizio allora i presunti mandanti di Peppino sarebbero stati assolti. Caponnetto archivia l'inchiesta, però poi dopo, successivamente, in base ad una confessione di mia madre, una rivelazione di mia madre sul viaggio di mio padre negli Stati Uniti, ricordate, scusate, la scena del film, cioè quella è tutto reale, compreso la cravatta, che è un messaggio molto significativo, che stava a dire che se tu, nonno, non salvi Peppino, potrai morire sciolzato dal nodo di questa cravatta. Bene, poi sappiamo benissimo che ormai non c'era più nessun rapporto fra la mafia, fra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana, c'erano solo rapporti di affari e ognuno poteva decidere per conto suo. Bene, poi mio padre muore in maniera poco chiara, che noi consideriamo sia stato un delitto, perché lui organicamente era inserito all'interno dell'organizzazione mafiosa. Nella mafia chi è vincolato col giuramento non si può permettere in alcuni casi di salvare pure il figlio, lo deve uccidere, il regolamento prevede questo. Lui ha tentato di salvarlo, è morto prima, poi dopo, successivamente, uccidono Peppino. Allora, con questa rivelazione di mia madre si apre l'inchiesta, e guarda caso, non la faccio lunga perché sennò qui facciamo di nuovo giorno, e guarda caso viene affidata al giudice Giovanni Falcone. Ecco, il quadro è chiaro, chiarissimo. Queste persone che quantomeno avevano tentato di arrivare sul caso, alla verità sul caso di Peppino, sono tutti morti, tutti uccisi, tranne Caponnetto, che è morto di morte naturale. Dall'altro lato nessuno è morto pure di morte naturale, sono tutti vivi, che si godono le splendide pensioni. Allora, cari amici e cari compagni, che qui lo posso dire cari compagni, perché spesse volte devo dire amici, poi per dire compagni devo chiedere il permesso, no, sto scherzando, no. Allora, vi dico, noi purtroppo abbiamo vissuto in un paese dove non c'è stata legalità, e il caso di Peppino in passato è chiaro, preciso, su questo non ci sono problemi. E allora, che cosa dobbiamo fare? È chiaro che dobbiamo fare quello che io accennavo poco fa. Ci sono tante proposte. Oggi bisogna soprattutto essere chiari, chiarissimi su tutta una serie di cose. I risultati importanti noi li abbiamo ottenuti, perché una delle prime cose oggi è dimostrare concretezza, dare un segnale di fiducia soprattutto sulle nuove generazioni. Vedete che la cosa terribile che succede a me è che io spesse volte, quando incontro molte persone in dibattiti, conferenze, iniziative, io vedo attorno a me molte persone rassegnate. Non è il caso qui vostro sicuramente, però vedete, le persone rassegnate mi fanno una grande paura, perché sono quelle persone, non voglio scomodare Gramsci sull'indifferenza, non voglio fare citare Gramsci sull'indifferenza, però la rassegnazione è peggio. Le persone rassegnate mi fanno paura, perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità, e quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte alla mafia, non si fa altro che agevolare tutto il negativo che viene fuori. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti su una cosa: aprire gli occhi e mantenere la schiena dritta. Chiaramente, dirlo a voi, credo che, però noi lo dobbiamo dire agli altri, per un semplice motivo: perché noi abbiamo parlato di Cisi, abbiamo parlato della Calabria, abbiamo parlato di quello che avete subito voi, però l'illegalità è a livello mondiale, lo squilibrio delle risorse, la globalizzazione che doveva risolvere alcuni problemi, non voglio fare l'economista, però il 20% che vive in questo universo non è legale che si deve appropriare dell'80% delle risorse esistenti, e all'80% deve rimanere quel misero 20%, non è legalità. Questa globalizzazione che doveva risolvere i grandi problemi ci ha portato in una fase molto delicata, a parte le privatizzazioni, che la mafia l'ha capito benissimo, la questione delle privatizzazioni, già la mafia ci marcia. Non a caso il volume complessivo, il fatturato complessivo della mafia ha raggiunto i 180 miliardi di euro l'anno. Cioè, vedete che 180 miliardi di euro non sono noccioline, quante cose si potrebbero fare con 180 miliardi di euro? Cioè, pensate un po'. E questa globalizzazione, le privatizzazioni, ci hanno portato in una fase ancora più pericolosa, il neoliberismo. Vedete che il neoliberismo piace a molti, a tante persone di sinistra piace, a una buona parte della sinistra piace il neoliberismo, però il neoliberismo non ha fatto altro che aumentare sempre di più il libero mercato, i conflitti di interessi, che non sono soltanto in Italia il conflitto di interessi. Noi siamo abituati a Berlusconi, che ci ha governato per tanti anni, che era uno dei più ricchi d'Europa. No, i conflitti di interessi sono altrove. Bush il padre, Bush il figlio, sono i più ricchi del mondo, assieme a Bin Laden, che poi diventa cattivo quest'uomo, molto amici, facevano affari, poi subito dopo diventa cattivo improvvisamente. Ecco, loro per tanti anni hanno governato una delle più forti nazioni del mondo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista militare. Ecco il conflitto di interesse, ecco quello che dobbiamo fare. Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo contrastare questo tipo, queste cose negative che purtroppo non ci fanno crescere da tutti i punti di vista. Io mi avvio alla conclusione, e vedete che la situazione, diciamo, non è molto, molto allegra, però dipende da noi se dobbiamo cambiare, e dipende da quelle battaglie che noi abbiamo sempre portato avanti, compreso voi. Vedete, noi siamo convinti che la mafia va sconfitta soprattutto con un sano progetto, a parte quello che abbiamo detto, perché il lavoro di memoria, il lavoro di analisi, di ricerca non basta più. Le mobilitazioni sociali sono importanti, le lotte, però io credo che bisogna portare avanti un sano progetto di sviluppo economico e morale, perché purtroppo la fase è molto delicata. Oggi purtroppo la politica conta poco, e quando l'economia domina sulla politica e sulla ragione, qualcosa inizia a non funzionare. Quello che sta avvenendo ora a livello mondiale, quello che sta avvenendo ora in Italia. Non so se dimentico qualcosa, non voglio approfittare della vostra attenzione, ancora una volta la mia piena solidarietà, non soltanto la mia, della mia famiglia, dei compagni di Peppino, di Casa Memoria, dell'Associazione Impastato, di Radio Alto, siamo con voi e vi sosteniamo tantissimo. Però un attimo, noi un po' di sostegno l'abbiamo pure di bisogno. Io poco fa a Elio dicevo una cosa importante: a Ponte Lanica si sta consumando un crimine, che è un crimine alla memoria. E vedete, se noi perdiamo questa battaglia, veramente per tanti anni arretreremo altro che 100 passi, li faremo al contrario. È una battaglia che non possiamo perdere. Voi lo sapete, il sindaco leghista poco fa mi pare che ne ho accennato, è una battaglia che non possiamo perdere. Perciò noi ci stiamo preparando a una grande mobilitazione nazionale, possibilmente a settembre, perché il sindaco di Ponte Lanica, noi abbiamo chiesto le dimissioni di questo sindaco, perché non si può continuare a combattere questi crimini. Ecco, noi abbiamo chiesto le dimissioni, faremo un grande appello a tutti voi, non solo a tutti voi, ma anche a quella parte sana delle istituzioni che ci vuole venire incontro, perché voi sapete pure che, a proposito di questo, qui non siamo, il nostro non è un paese spento. Anche le battaglie istituzionali hanno avuto una funzione positiva. La commissione antimafia è stata una battaglia istituzionale spinta dal basso, sicuramente, e noi, anche spingendo dal basso, qualcosa a livello istituzionale possiamo pure ottenerla, perché vedete, dopo Ponte Lanica, in risposta a quel sindaco, a parte le mobilitazioni popolari che ci sono state in tutta Italia, è nato spontaneamente un movimento democratico, un movimento di amministratori che non l'ha organizzato nessuno, è nato spontaneamente, e hanno intitolato in tutta Italia biblioteche, piazze a Peppino Impastato. Ecco, se noi marciamo a pari passo, se noi marciamo a pari passo con una parte sana delle istituzioni, se noi apriamo un dialogo anche a culture diverse, io sono convinto di una cosa: noi ce la possiamo fare. Ripeto, la battaglia di Ponte Lanica è una battaglia che non ci possiamo permettere di perdere in questo momento. Grazie.